Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ed eccola qua la fantastica onda del rock che vi invade ogni mercoledì sera. Sono le 22:04 minuti primi, questa è Blu Radio Veneto all'interno di Rock Wave, l'onda del rock. Oggi è mercoledì 25 luglio 2012, una buona serata a tutti, vi arriva da Flavio Bilato e da chi assieme a me conduce la trasmissione, Maurizio Calzavara. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, abbiamo promesso ancora appuntamenti live a non finire anche durante tutta l'estate. Grazie anche ai nostri numerosi ospiti, continuiamo con il nostro amabile progetto e in questa serata abbiamo chi ci viene a trovare dalla Romagna. Ecco qua, lascia la Romagna, dove magari sono impegnati anche in attività, diciamo, turistiche, per arrivare qui da noi, in quel di Padova, nella redazione, una delle redazioni di Blu Radio Veneto, per farci ascoltare la loro musica, non solamente quella da disco ma anche quella live, quindi suonata con i loro strumenti che per l'occasione abbiamo tutti ben montati qui all'interno dei nostri piccoli studi. Allora diamo il benvenuto ai Visioni di Cody. Buonasera ragazzi. Ciao. Ciao. Buonasera. Allora innanzitutto, fatto buon viaggio? Sì, è andato tutto bene. Non avete trovato traffico, no? Assolutamente. È una roba tranquilla. C'è di peggio. Allora, Visione di Cody, voi arrivate da un paese in provincia di Forlì Cesena. Come si chiama questo paese? Noi siamo di San Piero in Bagno, in realtà il comune si chiama Bagno di Romagna. Sì. Poi ci, diciamo, dividiamo in varie frazioni del comune, ma diciamo Bagno di Romagna così la facciamo più semplice. Certo, tutti quanti conoscono Bagno di Romagna perché? Tutti quanti la dovrebbero conoscere, sì. perché ci sono le terme, è una località turistica. Questa è la prima motivazione, il sindaco direbbe così. Ecco. E il musicista direbbe perché c'è una forte storia di musica, adesso non partiamo dalla preistoria, ma partiamo da quello che secondo me è il gruppo che, diciamo, ci ha segnato maggiormente della nostra vallata, noi ragazzi comunque della nostra età un po' più grandi, che sono i Mazzapegul. Poi i Mazzapegul, esatto. Tra le altre cose, Mazzapegul, noi conosciamo sia il gruppo sia anche il significato della parola, perché anche altri vostri amici appunto romagnoli ci parlavano di Mazzapegul come quel diavoletto, come quello spiritello, ecco, il folletto che viene a tirare anche i piedi di notte, se non stai attento, oppure lo trovi, ti consiglia male. Esatto. Insomma, mille sono le maniere per incontrare questo Mazzapegul. Sì, diciamo, questo era il gruppo, diciamo, per tornare più indie, che ha avuto maggior riscontro anche di pubblico. Della nostra zona cresceva. Poi, il folk at Tom Waits da parte vostra, assolutamente in loro si sentiva sicuramente fortissimo. Noi ci a livello di genere ci stacchiamo un pochino, siamo un'altra generazione, insomma, facciamo anche altre cose, un'altra maniera di fare musica, e l'ascolteremo questa sera all'interno della programmazione di Rock Wave, l'onda del rock. Quindi ricordiamo il nome, Visioni di Cody. Non sarò il primo a chiedervi come mai un nome così particolare, visto che arriva da qualche libro a cui forse siete affezionati. Allora, dimenticavo di presentarvi, voi adesso siete in tre come Visioni di Cody, però in realtà voi suonate in quattro quando siete in organico completo. Allora, Enrico, Leonardo e Matteo questa sera, mentre salutiamo a distanza l'altro Enrico che non c'è. Ciao, ciao Mancio. Ciao. Impegni di lavoro e quindi comunque può ascoltarci, se non via frequenza tradizionale, anche via streaming audio. Anzi, ne approfitto per ricordarlo ai nostri ascoltatori che per ascoltarci anche via internet è sufficiente andare all'interno del nostro sito internet bluradioveneto.it e cliccare all'interno della pagina riservata alla notizia dei Visioni di Cody. All'interno c'è uno spazio per la diretta audio ed eccoci qua, buona serata. Allora, riprendiamo da dove eravamo rimasti, quindi Visioni di Cody. Beh, sì, è il titolo di un libro di Kerouac. Jack Kerouac. Sì, della Big Generation, ma in realtà insomma noi l'abbiamo scelto perché suonava bene, se dobbiamo essere sinceri. Sta parlando l'intellettuale del gruppo, sì. Flavio, sottolineiamo, lui ha scelto il livello, un certo livello, certo. Batterista. Quindi assolutamente suonava bene, per sì. cui l'avete scelto, sì, perché... ci piaceva. Però non è che siamo dei fans accaniti di Jack Kerouac, nel senso che non avete letto il libro. Non lo volevo dire, ma in realtà ci si è provato, sì, ti sì. interrompo, ma vai. Nel senso che, no, per carità, non sia mai On the Road, l'abbiamo letto tutti. Il problema è approcciarsi a Visioni di Cody, perché è veramente ostico, ma ripeto, l'intellettuale del gruppo, sì, è lui, sì. Quindi, ma non fino a questi livelli forse. No, vabbè, comunque certo, forse qualcosa di beat c'è nel... Forse nel vecchio disco c'era di più qualcosa di beat. E come si chiamava il vecchio disco? Écrasé l'enfant. Esattamente. Che era poi una frase di Voltaire, una citazione di Voltaire. Quella è colpa mia, ma è un'altra storia. Un'altra storia ancora, lasciamo. Stiamo parlando di cultura a grandi livelli. Esatto. Prima Kerouac, adesso Voltaire, insomma. Chissà cosa ci porterà la trasmissione. Ricordiamo agli ascoltatori che stiamo qui fino alle ore 24, per cui abbiamo trascorso i primi minuti, già sono venute cose. Abbiamo già finito le cartucce, certo, culturali. Molto, molto bene. Continuiamo con altre cartucce, allora. Comunque dicevo, insomma, Écrasé l'enfant forse aveva qualcosa di beat nel fatto che studiavamo tutti a Bologna, quindi insomma ci piaceva un po' più la vita universitaria con i suoi eccessi, diciamo. E quindi un po' più di beat c'era. Il Bon Guccini, folk beat numero uno, ha scritto, quindi già parte da quello tutto, ecco, il discorso. Mentre adesso, dai, Grittola in realtà forse ha un po' meno di beat, no? Più, forse un po' quasi il contrario. Esatto, forse proprio il contrario. Tra altre cose, si era un po' noi di Blu Radio Veneto, ancora senza conoscervi, naturalmente si ascolta il disco, si prendono informazioni riguardo al gruppo, e ho visto, sì, avete visto anche quel bel pacco che si porta sempre appresso a Maurizio, ecco, quel bel faldone, e abbiamo visto che ci sono diversi titoli alla francese, quindi Semiotique piuttosto che Écrasé l'enfant e così via. Allora ci veniva da pronunciare direttamente il titolo del disco, Gritol, a quel punto. Hai ragione, guarda, come darti torto, non fa una piega. In realtà poi abbiamo capito che Gritole fa parte del vostro territorio, e quindi è il nome di un paese, di una località da quelle parti. È il nome di un podere. Di un podere. Esatto, dove vive Enrico, che non c'è. L'altro no, Enrico. Esatto. Che è rimasto a Gritole. No, no, sì. No, è diverso, perché fosse alle Gritole sarebbe già un discorso, coltivare i suoi campi, e già sarebbe... Invece sì. No, invece no, è tutto il bello in gingheri, perché fa un altro lavoro, ma... A Gritole rappresenta anche il ritorno al passato, il ritorno alla campagna, sì, alla genuinità rispetto al disco precedente. Cosa dite? Sì, sì, questo penso che sia la cosa più evidente, quello che almeno è stato per noi il nostro percorso. C'è stato un cambiamento, no? Sia fisico che poi di sperimentazione musicale. Che ci ha visto, appunto, come diceva Leonardo prima, spostarci da Bologna e ritornare a casa, e quindi sia una ripulitura delle nostre melodie, sia uno spostamento, appunto, fisico, che ci ha portato da una città abbastanza grande al nostro piccolo paese, in una realtà completamente diversa. Benissimo, allora direi che abbiamo parlato anche troppo per iniziare, abbiamo comunque fatto anche divulgazione letteraria. A questo punto mano agli strumenti per presentare un primo pezzo tratto da Gritole. A quale facciamo riferimento? La piscina del dottore. Benissimo, allora ci ascoltiamo e poi torniamo a commentarla insieme. Non lasciate le nostre frequenze. Questa è Blu Radio Veneto. Loro sono Visioni di Cody con Gritole. Che tu sia sporca o pulita, è sempre lo stesso colore. Temo sia colpa del cloro che non si può utilizzare. Imperturbabile al tempo, necessiti di manutenzione. Le tue onde sono qualcosa di artificiale. Ma anche tu hai tuo profondo. Anche tu col tuo profondo. Ma anche tu hai il tuo profondo. Anche tu col tuo profondo. Dentro te ho notato correnti proprie di un qualsiasi altro mare. Su di te hanno incrociato battelli e faria illuminar unioni volgari. Anche tu hai il tuo profondo. Anche tu col tuo profondo. Anche tu hai il tuo profondo. Anche tu col tuo profondo. Se sposa e rispondi al dottore, ma non scordare il tuo amante, sei anni in piscina termale. Blu Radio Veneto. Blu Radio Rock Wave. L'onda del rock. Con Blu Radio Veneto stiamo conoscendo i Visioni di Cody, ci hanno portato un nuovo disco, si intitola Gritole, lo stiamo già ascoltando nella versione live. Prima appunto con loro abbiamo parlato della loro terra, del loro bagno di Romagna, e adesso verso la fine della canzone abbiamo capito la locazione esatta della piscina del dottore. Allora, buonasera ragazzi, benvenuti ancora in frequenza. Buonasera. Quindi Visioni di Cody sono qui con noi anche per commentare questo disco. Ho detto giusto oppure c'era qualcosa che mi è sfuggito? Guarda, è troppo giusto. Sì, salutiamo Mancio che intanto Mancio. È in piscina. Ah, è in piscina Mancio? Ecco, benissimo, allora lo salutiamo. È lui anche il dottore? Questo, no, diciamo di sì, è l'innominabile. Va bene, quindi un minimo di segreto. Certo, certo, ma la piscina del dottore, noi vogliamo anche svelare qualche segreto, no? La piscina del dottore esattamente dove si colloca e come mai è nata questa canzone? A chi è venuto in mente di chiamarla in questa maniera? So, vi guardate in continuazione come per dire adesso cosa gli raccontiamo. Beh, a questo dai, diciamo che il colpevole è quello la colpa è mia. Sì, ecco qua. Colpa è mia. La colpa è di Enrico, allora. Esatto. Però niente, no, come è nato questo pezzo? In realtà i nostri pezzi nascono un pochino tutti nello stesso modo. Di solito sono delle esperienze di vita vissute personalmente e noi poi ci scriviamo sopra una canzone. In questo caso diciamo che è un po' più un sogno e appunto rimaniamo con un velone, un alone di mistero. A meno che non vuoi sottolineare qualche altro aspetto. Però no, era semplicemente il posto di lavoro, ma una volta, sì, di uno di noi, di quello che manca, si può anche dire. Di quello che manca. È un po' di pubblicità alle terme. Un pezzo molto bello questo qua, almeno in questa versione acustica, molto minimale, un post noise rispetto alla vostra partenza, che era noise. Voi avevate un altro nome, era noise il vostro sound, chiaramente totalmente diverso. Però c'è qualcosina che ricorda il noise, anche se è molto pacato, molto velutato, sì, molto avvolgente. Però c'è qualche quid collegato, caro batterista, nonché dottore, il laureato del gruppo. Dimmi. Ah, te è laureato del gruppo. A tutti e due. Dimmi. Comunque, dai. Sì, forse più nella versione, almeno per quanto riguarda la piscina del dottore, nella versione del disco. Mm. Sicuramente c'è del noise. Eh sì, certamente. Semplicemente. Beh, è colpa sua praticamente. Il basso. È sì, lui il basso che ha dato. Insomma, quello è puro noise, quel basso lì, insomma, no? Cosa una dici, Enrico? No, no, io sono d'accordo. No, è chiaro che qualcosa del nostro passato rimane e ci piace che sia così. E abbiamo cambiato stile, probabilmente nei prossimi lavori lo cambieremo ancora e vediamo cosa succede, insomma. Ma era bella l'impostazione qua adesso che abbiamo sentito io e Flavio, tutti i nostri ascoltatori, è proprio minimale, proprio lenta, cadenzata, minimale, quasi velvettiana, potremmo dire, in alcuni momenti. A noi diciamo che la bolla che tiene insieme tutti gli strumenti, compresa la voce, ci è sempre piaciuta. E nell'altro disco forse si poteva notare un po' di più, e in questo qui abbiamo cercato di fare una cosa un po' più, appunto, come dicevo prima, quasi che colpisce direttamente, e quindi anche le liriche sono dirette, e anche diciamo che proprio come mixaggio delle voci è un'altra cosa. Poi facendo le live, chiaramente ogni tanto la facciamo sia nella versione del disco sia in questa versione qui, e poi magari se ci viene in mente qualcos'altro la facciamo. Addirittura volevamo venire a farla solo chitarra e voce, poi il nostro chitarrista non dice niente, dimmi. No, niente. No, spazio anche a Matteo. Sì, sì, ciao. Lui sì, no, vabbè, non dico niente. Sì, dillo, dai. Si è sposato. Sì, anzi, saluto niente. Mia moglie. La rassicuro, ciao Giada. La rassicuro, siamo qua, tutti maschi. È vero, bene. Perfetto, non ci sono problemi, questa è Blu Radio Veneto. Allora, direi di prenderci un po' di pausa tra conversazione e primo brano live per ascoltare invece quello che è il disco che lanciate, la priorità assoluta va a questa traccia che ascoltiamo da disco, e poi torniamo a commentare insieme. E come si intitola? Si intitola? Claudio. Eccolo qua. Rock Wave. L'onda del rock. Claudio, sei nato stanco e poi sei morto grasso. Che brutta fine hai fatto, che brutta fine hai fatto. Scommettici la pelle che un dì ti mangeranno. Che brutta fine han fatto, che brutta fine han fatto. L'hai fatto l'altro giorno. Chi tira il collo al gallo? Chi tira il collo al gallo? Nascosto dentro al fosso c'è il tuo padrone morto. Che brutta fine ha fatto, che brutta fine ha fatto. We'll be right back. Blu Radio Veneto. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ecco qua, l'onda del rock ha invaso ancora una volta la vostra esistenza, sempre con Blu Radio Veneto. Ancora buona serata a tutti da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara. Abbiamo ascoltato un pezzo da disco di Visione di Cody dall'album Gritole, si intitola così, un nome davvero particolare, abbiamo capito anche il perché. Abbiamo una traccia, la traccia numero 5, che è anche il disco, che la canzone che dovrebbe trainare l'intero CD. Si intitola Claudio e sentiamo i commenti di Visione di Cody, come sono nati. Siamo fortunati perché ce li abbiamo qua, Visione di Cody, è qui qua ancora. Fortunati. Enrico, Leonardo e Matteo. Allora, io dico, spero tanto che Claudio non sia un vostro amico. No. In realtà è cioè, un in realtà, insieme, esatto. Ecco. In realtà c'è un po' di Claudio in tutti, però sostanzialmente voleva essere una critica alla mediocrità. E Claudio è un uomo che si guarda le scarpe, che pensa solo per sé, è ultra individualista e tutto questo comporta il nostro odio nei suoi confronti. No, ma è anche ci siamo dentro anche noi, insomma, sì, è un po' l'uomo moderno, no? Lavora per morire, insomma, così tristemente, ecco, almeno il testo dice questo. Produci, cioè, consuma e muori. Esatto. Produci, e il gallo in tutto questo? Il gallo, anche quello lì è un'avventura, quella, ripeto, poi in ogni canzone c'è un po' di vita vissuta. Quella è un'avventura che in realtà fa un po' arrossire, perché è la storia del gallo ninja. Il gallo ninja. Preso direttamente dai fumetti? No, in realtà. Sempre alle gritole. Alle gritole. Bisogna andarci in questo paese. Siete invitati. Promozione turistica tutti per a casa andare a gritole. Alle gritole. Sì. Alle gritole, sì, esiste questo gallo e bisogna combatterci per capire cosa vuol dire veramente essere uomini. Ho capito, quindi comunque diciamo mettiamo al bando il combattimento, quello effettivo, con i galli che vediamo spesso in televisione. Lui è l'unico gallo di Gritole un po' attivo. Vincente, cioè, assolutamente. È impossibile vincere contro il gallo ninja. Ah, allora perfetto. Vabbè, quindi abbiamo messo curiosità, magari prenotiamoci, se non per il 2012, per il 2013, per andare a passare qualche giorno a Gritole. Quando volete. Ecco qua. Benissimo. Allora, entusiasmante anche l'effetto di basso di questo pezzo. Quindi è nato già in forma energica oppure... Sì, è nato proprio così. Eravamo alle prove e ci è venuto questo riff. C'era questo giro di basso. Anzi, inizialmente mi sa che stavamo provando a farlo con la chitarra. Sì, esatto. Poi sì. Abbiamo detto, ma forse. Meglio con il basso, ma è quasi panchettaro. Sì, assolutamente panchettaro. Niente, ci ha messo sotto un ritmo di batteria e così è andata. Adesso dal vivo, con gli strumenti elettrici, come lo suonate un pezzo così? Ah no, lo suoniamo così com'è nel disco. Ah, direttamente, uguale. Sì, uguale. Cioè, c'è poca differenza. Facendo anche le mosse da punk. Ah, esatto. Anche le mosse. Siamo molto giovani. Indubbiamente. Rispetto a me sicuramente. E sicuramente non vogliono fare la fine di Claudio. In questo caso. Esattamente. No. Chi lo sa. Vabbè, dopo alla fine si sa che si va, però meglio tardi e meglio più sani che mai. No? È chiaro. Quindi, ecco. Perfetto. Allora, Visione di Cody, visto che abbiamo anche gli strumenti musicali, abbiamo già passato mezz'ora della nostra trasmissione, però diciamo che fino a mezzanotte ne sentiremo di belle, anzi ne vedremo anche di belle, nel senso che all'interno poi della nostra pagina di Facebook verranno pubblicate anche le foto che riguardano la serata. E poi ricordiamo ancora che questa trasmissione la stiamo registrando per poi proporla all'interno dei nostri archivi sonori, sempre all'interno del nostro sito internet bluradioveneto.it, cliccando nella pagina dei Visioni di Cody si potrà accedere sia alle foto sia all'archivio sonoro. Ora è giunto il momento di ascoltare un qualcosa che riguarda il mare. Il mare che spacca la terra, sì. Ecco qua. E allora ce l'ascoltiamo. Visioni di Cody a Blu Radio Veneto. educata in amore, disse svestita che il grano è un mare che spacca la terra, non egoista, ha la pelle scura, ha la pelle scura. Marco, lui era molto più bello, figlio del mare, fratello, appunto del mare di grano, che ben si dica, alla pelle scura, alla pelle scura. Sotto padron, li gritli l'impassa dai vetri, nonno, hai scelto quel mese di maggio con altrettanto coraggio, ricordo tue parole già strozzate, nonna, hai pianto una sola volta, adesso mi vieni a trovare nascosto tra orzo e grano e devi urlare, pelle scura, alla pelle Blu Radio Veneto. Svolta. E cantiamo le tue mezze parole. Ciao, sono Don Francesco Farronato. Sono parroco di una piccola parrocchia di Padova, San Prosdocimo. Vi aspetto al sabato alle 8:15 del mattino e alla domenica alle 7 sempre del mattino per una rubrica religiosa che si intitola Briciole povere di un pane di festa. È un tentativo di ricamare parole piccole intorno alla parola grande del Vangelo della Domenica. Vi aspetto. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Eccoci qua ancora in diretta con Blu Radio Veneto, con l'onda del rock di Rock Wave, ancora insieme a Flavio e Maurizio, con i Visioni di Cody, si chiamano così, vengono a trovarci da Bagno di Romagna, il loro ultimo lavoro si intitola Gritole, è quello che ci siamo ascoltati in versione dal vivo, così in maniera irruenta, il mare che spacca la terra, e c'era proprio questa bella figura che ci piaceva di sentire in questo caso, perché noi siamo anche fortunati, io e Maurizio vediamo anche i gruppi che si esprimono in questa serata e non vediamo l'ora vengano ripristinate anche le webcam per farle vedere anche agli ascoltatori, ma in questo caso, chiudendo un attimo gli occhi, si assaporava anche questo mare che spacca la terra. Come è nata questa canzone? Io credo che questo sia il pezzo che forse caratterizza di più il disco, perché è molto personale e il testo è scritto da Enrico e sicuramente lui, se fosse qui a spiegarvelo, ci potrebbe mettere anche più pathos rispetto a quello che posso fare io. Io chiaramente conosco ogni significato dei nostri testi e spesso e volentieri i nostri testi sono fatti apposta perché l'ascoltatore o comunque dia il proprio significato a quello che raccontiamo, perché molto spesso sono spunti o sogni e di conseguenza ognuno è libero di pensare o finire, diciamo, un po' alla Gianni Rodari, per tornare al momento culturale, e le avventure come meglio crede. Questo pezzo qui è appunto un pezzo che parla delle gritole, è la storia delle gritole, e il mare che spacca la terra è quando il grano sta per crescere e spacca, fa delle crepe nel terreno e poi, dopo una buona irrigata, diciamo, nasce finalmente e diventa un mare giallo. Anche musicalmente ha un significato, mare che spacca la terra, secondo me. Il mare rappresenta la melodia, però che spacca la terra è il rumore che poi alla fine c'è nel pezzo, la propulsione, la potenza, perché fin di conti, ripeto, come avevo detto prima, il noise non si è dimenticato, viene sempre fuori, assolutamente. L'abbiamo molto ridimensionato. Sì, l'avete ridimensionato, noise. Però la forza di radicare una melodia l'avete, soprattutto nel finale del pezzo. Poi la melodia ritorna, però avete voglia di trasgredire la melodia e poi tirarla dappertutto, non so cosa pensi te, visto che la batteria è fondamentale in questo pezzo. Assolutamente fondamentale. Anche alle prove c'è questa cosa, cioè quando fai un pezzo poi c'è anche il momento in cui vuoi proprio spaccare la terra, spacchi le orecchie, giustamente in senso positivo, degli ascoltatori. E questo poi rimane anche nei pezzi. Certo. Allora, è da dire che i vostri precedenti lavori sono stati tutti e due autoprodotti. Anche per questo eravate partiti nel fare questo, ma poi qualcuno vi ha consigliato un'altra strada alternativa e forse vi ha dato, diciamo, ancora più tono. Sì, noi abbiamo cominciato da ragazzini, perché ormai è 10 anni che suoniamo insieme, non sembra, ma... 8. Comunque cos'è? Facciamoci 2003... più vecchi di no, così. 9. 2003, 2004, 2003. Vabbè, 9. E quindi abbiamo iniziato come iniziano tutti i ragazzini, cioè per puro divertimento. Poi crescendo ci è venuta un po' voglia anche di cercare di organizzarci e fare un po' di concerti, perché ci piace, come credo a tutti i musicisti, fare sentire la propria musica in giro più possibile. E ci si è presentata l'occasione di far uscire il disco con questa etichetta che si chiama Brutture Moderne, che è di un'etichetta che ha un nome che è perfetta. Sì. E sono rimasti colpiti dal nostro lavoro perché gli è piaciuto molto. Contemporaneamente noi siamo stati molto orgogliosi e contenti che ci fosse qualcuno che apprezzava così tanto il nostro disco. E quindi ci siamo parlati un po', abbiamo mixato insieme qualche canzone, diciamo che ci siamo capiti subito e insomma è nato Gritole. E invece per quanto riguarda le autoproduzioni precedenti, m'era sia voglia di fare tutto da soli e sia... non eravamo, diciamo, neanche entrati nel mondo della di questo tipo di musica, delle etichette indipendenti, eccetera, quindi eravamo proprio allo sbaraglio. Ma San Piero in Bagno è una località importante, visto che hai trascorsi con Caposella, hai trascorsi con Mac Ribot. Come mai Caposella e Mac Ribot sono transitate a questo luogo indie tra la Toscana e l'Emilia Romagna. Ve lo chiedete anche voi. Fatto. Vuol dire che qualcosa si muove, si è sempre mosso. C'è un'aria strana da noi, quindi. Che non è solamente aria di liscio, perché molte volte la Romagna viene sempre abbinata a una forma di musica e liscio, ognuno esprime il commento che può. Quindi, in Romagna in comunque, realtà, sì. In Romagna in realtà ce ne sono veramente tanti di gruppi validi, non solo appunto da noi, ma anche scendendo verso valle, andando verso Cesena, verso Rimini, Faenza, Forlì, ci sono veramente tanti gruppi validi. E infatti un po' ci scoccia perché sono troppi. C'è la concorrenza. Però adesso potrei fare anche da Andrea Cole, saluti da Saturno, in O'Brien. Sono venuti qua, tempo fa i saluti da Saturno, anche da un Bailò sono venuti qua, eccetera. Quindi ce ne sono veramente tanti che sono venuti anche i Radis, non so se li conoscete. Anche Radis, sì, dalle sono anche parti. Loro della nostra etichetta più o meno, se non sbaglio. Sì, mi pare di sì, mi sembra adesso non ricordo. Dobbiamo interrogare il nostro direttore artistico, Alberto Pisco, che salutiamo, che è stato lui. Ciao Alberto e grazie perché è sempre merito suo se vengono gruppi di un buon spessore a trovarsi, in questo caso Visione di Cody. E, allora, prima si parlava di Mazza Pegul, un gruppo conosciuto dalle vostre parti, con un Roberto Greggi che vi ha dato una mano anche in questo disco. Sì, lui era uno dei cantanti dei Mazza Pegul e noi siamo cresciuti con le sue melodie. E ha una voce che secondo noi era bellissima, e poter realizzare un pezzo, poi nel disco in realtà sono due pezzi, con lui ci sembrava un'ottima idea. Appena gli abbiamo detto, lui è stato contento, quindi noi eravamo più contenti di lui. E è stato bello perché in sessione di registrazione io mi prendo il mio tempo, faccio i miei errori, ci riprovo, vedo un po' come va. E lui le ha cantate due volte, le ha fatte bene la prima volta e mi ha lasciato così, di sasso. Sì, di sasso e spiazzato. Allora, ricordiamo, il disco, stiamo parlando appunto di Gritole, è uscito nel marzo del 2012, proprio di quest'anno, però è stato anticipato nella primavera del 2011 con un singolo proprio cantato da Roberto Greggi, che adesso ci andiamo ad ascoltare. Vuoi presentarlo? Certo. Questo pezzo si intitola Puttana Miseria. Eccolo qua, ce lo ascoltiamo. Rock Wave, l'onda del rock. L'onda del rock. Parla d'amore, ma non ha niente fra i denti, marmellata di more, burro, pane che mangi, canta per chi se ne va, canta per chi se ne va, canta. Per chi se ne va, canta. Il giorno dei morti, la fame ti sveglierà. Chi ha alzato gli sguardi e chi di sangue macchia i panni, canta. Per chi se ne va, canta, per chi se ne va, canta, per chi se ne va, canta. Thank you. se ne va, canta. E infine si alzi chi la terra ha amato, di chi muore di stenti e non si conosce il peccato. Canta per chi se ne va, canta per chi se ne va, canta per chi se ne va, canta. Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ed eccoci qua ancora, Blu Radio Veneto, 22:46 minuti primi, sempre all'interno di Rock Wave, l'onda del rock, qui su Blu Radio Veneto. Abbiamo con noi Visioni di Cody, ci stanno presentando il loro disco, si intitola Gritole, un nome davvero particolare che sta meritando alcuni approfondimenti, e una canzone che noi abbiamo ascoltato attentamente dopo aver sentito anche il titolo del tutto particolare, ma non abbiamo mai sentito all'interno della canzone appunto qualche riferimento al titolo. Come mai? Prego. Ma allora no, risponde Matteo. Sì. Il titolo non è nessuna volgarità, secondo noi. No, assolutamente. Cioè, parla di una canzone, parla di un testo molto povero. Sì, molto povero, anche molto cantautorale in questo caso. Sì. È un balzer. Cantautore di ricerca, perché certo. Si sente anche molto una sperimentazione all'interno di questa di questa canzone. Sì, ci si prova, i testi li fa comunque tutti, bene o male tutti, Enrico Mancini. Che non c'è, che non c'è. Si voleva prendere la responsabilità. No, sono testi che piacciono a noi per primi, certo. Perché sennò non... In realtà quando abbiamo iniziato, adesso parlando per aneddoti, no, ormai... Sì. Ci provavamo tutti a scrivere testi, poi ci siamo resi conto che erano scene, insomma che lui era bravo. Sicuramente più bravo, e quindi abbiamo detto: Mancio, i testi li fai te. e quindi va bene così. Poi quando li guardiamo insieme, magari capita che li mettiamo a posto oppure non li mettiamo a posto e semplicemente aggiustiamo le sillabe per far rientrare tutto all'interno della metrica, però per quanto riguarda Puttana Miseria è un pezzo dedicato alla povertà della terra, e, appunto parlando del nostro ritorno alle origini, però è quasi un flashback in cui noi ancora probabilmente non eravamo ancora nati, in cui da noi, come in tantissime parti d'Italia, si faceva un po' di miseria, si aveva un po', certo, si soffriva, certo, un po' di miseria, di conseguenza è una storia molto contadina da questo punto di vista. Anche come musicalmente, come ha detto giustamente Flavio, è una ballad con il basso, ma è una ballad fondamentalmente. Avete scelto giustamente Greggi, Roberto, che ha una bella voce, una voce che si intonava perfettamente al pezzo. Sì. Era così, no? Ma mi diceva Enrico che è buona la prima con Roberto. Sì, ripeto. E, secondo me, per i miei metri e canoni di valutazione, io avrei sicuramente preso la prima take come buona. E poi... Mentre Fonico ha deciso... No, essendo molto meticoloso e tenendoci molto al suo lavoro, oltre che a fare una bella cosa tutti insieme, da professionista, diciamo, l'ha rifatta tantissime volte, ma secondo me, ripeto, la prima take era buona. Era buona. Però, cioè, adesso nel prossimo disco magari ricollaborare ancora, cioè, più collaborazioni riusciamo a fare con persone che stimiamo e più siamo contenti. Sì, perché è una voce, una colorazione particolare, e quindi il pezzo che si diceva parlava di un significato importante, il ritorno alla terra, quindi doveva farlo così, e siete stati decisamente soddisfatti. Anche musicalmente è ben fatto, si sente bene, prende subito. Noi della redazione di Blu Radio Veneto di Rockaway abbiamo deciso per un mese di dare l'input a questo pezzo, per dare l'input a tutto l'album, e noi vi ringraziamo. Bene, cioè, voi volevate mandare avanti Claudio? No. No, c'è nessun problema. Assolutamente. No, naturalmente stiamo scherzando, perché poi si va sempre di valutazioni. Dovendo scegliere un pezzo è impossibile, perché sono 10 pezzi all'interno di Gritole, tutti veramente belli, tutti particolari, tutti con delle peculiarità proprie. Dei pezzi. Allora, ricordiamo anche come fare per entrare in possesso di Gritole. C'è qualche sito internet, qualche Bandcamp a disposizione? Hai già detto tutto. Ecco, allora di nostro sito, visionedicodi.bandcamp/visionedicodi. E in cui potete scaricare i nostri dischi vecchi gratuitamente e acquistare invece Gritole. Ci sono due modalità: quella appunto col digipack, che sì, ha una cifra, costa 10 euro, ecco. E invece l'altra modalità, in cui sono le tracce MP3, che costa 5 euro. E poi se uno lo vuole ordinare, noi glielo spediamo fisicamente e ci accogliamo anche le spese, quindi più di così. Mamma mia. Assolutamente, per mandare avanti la musica si fanno anche queste cose. Sì, sì. Assolutamente, vi fa onore questo. Anzi, visto che abbiamo parlato della trasmissione Digipack, vogliamo anche parlare un po' di questa copertina così particolare, che sicuramente avrà qualcosa a che fare con Gritole, ma anche con le aree industriali che sono là vicino, perché vedo che ci sono anche disegnate alcune fabbriche o forse alcune vecchie masserie, si può dire. Sì, per la copertina in realtà dobbiamo ringraziare la Sara Mazzetti, che già è già la seconda volta che ci fa un artwork. Lei è una ragazza di Bologna che l'abbiamo conosciuta all'università e fa proprio questi lavori sia per hobby, ma io spero per lei che possa sfociare in qualcosa di più, anzi in alcuni casi lo è già stato. E insieme a noi ha fatto anche la copertina dello Stato Sociale del disco di quest'anno, che secondo me è tra l'altro veramente molto molto bella. E poi noi ci ha fatto appunto la copertina di Gritole, ha fatto la copertina del disco vecchio di Ecrasera Infame, e io spero che ci faccia anche la prossima. Benissimo, quindi allora salutiamo anche Sara Mazzetti, che fa queste opere davvero carine e originali. Allora, adesso c'è spazio per un altro brano live. Noi abbiamo ascoltato tutti i 10 pezzi, però naturalmente vi ringraziamo perché ci state per riservare una sorpresa. È un inedito, se non ho capito male. Hai capito benissimo. Perfetto, allora ce l'ascoltiamo. Cane cammina con me. Gli occhi di mio padre, col volto da bambino, ho il volto di mio padre, ma ho gli occhi del bambino che sorridono, ridono ancora. Sono tutti qua i miei figli, casa non ne hanno, cercano lavoro e sognano stipendio, sorridono, ridono ancora. Oggi la droga ci serve. Certo, la droga ci salverà. Ormai la droga ci salverà. Certo, la droga ci salverà. Ah. Se sei onesto, che colpa il garbino? Oh, chi ha lavorato in passato? Sta bene nel paese più sporco. Sta bene il giorno dopo era morto. E scherza con i santi, ma lascia stare i fanti. E scherza con i santi, ma lascia stare i fanti. Ormai ho il cuore malato. Nessuno ha un futuro, nessuno è spacciato. Ho gli occhi di mio padre, col volto da bambino. Ho il volto di mio padre, ma ho gli occhi del bambino. Non è mai l'amore, è la società che ci fa soffrire. Oggi la droga ci salverà. Certo, la droga ci salverà. Ormai la droga ci salverà. Certo, la droga ci salverà. Blu Radio Veneto. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Abbiamo ascoltato Cane cammina con me, un inedito, quindi a segnale che Visioni di Cody non si fermano qui, ma già stanno pensando al loro prossimo lavoro, che magari sarà datato 2013. Ma non lo so, l'abbiamo già finito. Speriamo anche prima. L'avete già pronto? Sì. Ah, perfetto, quindi fine 2012 uscirà questo. No, non lo è ancora nuovo. No, ancora non si può parlare del nuovo. Continuiamo a parlare allora di Gritole, che appunto è un disco formato da 10 tracce, una buona presenza anche da parte degli occhi, quindi anche una buona copertina, l'abbiamo descritta poco fa. Allora abbiamo anche detto come si riesce ad entrare in contatto con i Visioni di Cody, come si fa a entrare in possesso della loro musica. Parliamo anche di quelli che sono i vostri concerti, ovvero come affrontate il pubblico, come vi dobbiamo trovare dal vivo in versione live, a parte in questa versione molto rannicchiata e molto acustica, che ci piace comunque un sacco. Sì. Beh, live siamo molto più complicati sotto tutti gli aspetti. Già il set è un po' più ampio, quindi richiede molto più tempo per essere messo in piedi, però insomma, ecco, live facciamo i pezzi come sono nel disco, normalmente. Tirati come sono nel disco? Sì, anche. Alcuni no, alcuni sì, ma abbastanza sì, tirati. Sì. Se possiamo, cerchiamo di renderli così come sono. Quindi poco un poca differenza. Sì, poi ripeto, dopo un po' che suoni sempre la stessa canzone, anche se è una bella canzone, ti stufi. Tendi a cambiare. Esatto, e quindi viene da sé che ogni tanto le riarrangi, ogni tanto cambi qualcosa. Dipende da come ci gira sul momento. E questo pezzo che abbiamo sentito adesso dal vivo, un inedito, il gioco del batterista è abbastanza corposo, perché fai spesso e volentieri stop and go in questo pezzo. Sì, esattamente. Come mai? Sì, che sì. Motivo c'era? Qual era l'idea? Ma l'idea, allora, eravamo partiti con la batteria nei due ritornelli. Sì. E poi, insomma, due strofe totalmente vuote, solo chitarra e voce, insomma, abbiamo detto proviamo a metterci qualcosa che dia un po' di vigore, ma non troppo, perché comunque voleva rimanere una canzone un po' da strada questa. Ho capito. Quindi ecco, ho aggiunto... Quindi Enrico aveva fatto il testo e voi tre l'avete musicalmente l'avete trasformato, l'avete arrangiato. Sì, quello esatto, discorso. Sì, sì, spesso sì. Succede così. Ha passato tante versioni questa canzone. Un sacco di nostre canzoni passano tantissime versioni, anche Puttana Miseria, di cui era diversa, era un'altra cosa, era quasi rock. E come mai è venuto fuori un valzer tirato? Ma non c'è sempre una motivazione logica in realtà. Ho capito. Noi che le vogliamo tirare fuori a tutti i costi le motivazioni logiche, in realtà dimentichiamo molto spesso che tocchiamo la sensibilità degli artisti. Esatto. Lo so, io voglio sempre entrare nel profondo, ma ho visto che devo fermarmi praticamente. No, è che non sappiamo proprio come mai. Ah, quindi... ho capito. Esatto, cioè, a volte lo facciamo e basta. Okay. Viene e non sai perché. è un po' difficile parlare di musica, è molto più facile ascoltarla in questo caso. Allora, sono le 23, manca qualche secondo al, diciamo, al giro di boa che ci porterà verso le 24 e ancora molta musica da ascoltare con Visioni di Cody e con Gritole. Allora, adesso spazio per una canzone su disco e poi torniamo a commentarla insieme e a fare ancora qualche domanda ai nostri amici, appunto le Visioni di Cody, che sono qui con noi a Blu Radio Veneto. Rock Wave, l'onda del rock. Siamo sotto a litigare per ogni motivo futile, fino a arrabattarci ad ogni sbornia utile. Dietro quella lente metti a fuoco il mondo è certo grande e tu impieghi tanto. Ilaria, meno male, dagli un occhio per favore, quel suo muso lungo mi sta a cuore. Tagliagli la barba, incollagli i capelli. Quando Piero ha scattato il gelo io non c'ero. Quando Piero ha scattato il gelo io non c'ero. Versagli un po' d'acqua se gli scoppia la faccia. Thank you. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Per chi non l'avesse capito, l'abbiamo ripetuto due volte. Rock Wave, l'onda del rock, qui su Blu Radio Veneto, ancora con Visioni di Cody, il loro lavoro, sentito da Gritole. È un pezzo che è veramente tranquillo, calmo, proprio flemmatico. E proprio per questo avete deciso di chiamarlo la flemma di Piero. Piero è un altro personaggio che abita a Gritole? No. Ah. Lui abita a Villa Bondi. Ah, ok. È una reggia sulle colline Cesenati, domina tutta la vallata. E è un nostro grande amico. È anche un ottimo fotografo, anzi ne approfitto per dire che se volete visitare il suo sito, ovviamente fa questo nella vita, non è solo una passione, quindi chiamatelo perché è molto bravo. Si chiama Pietro Bondi? Sì, Pietro Bondi, pardon, Pietro Bondi. Pietro Bondi, fotografo, noto per la sua flemma. È sicuramente il più fricchettone che io conosca. Ecco, perfetto. E quindi già che ci siamo, il sito completo, così invitiamo subito gli ascoltatori ad andare a curiosare. Certo, mi sembra, adesso io non voglio sbagliare perché poi gli farei un torto, però mi sembra sia pietrobondi.blogspot.com. Flavio, musicalmente un critico ha scritto una cosa che ti piace sicuramente. Questo pezzo ricorda la voce di Garbo, è un po' David Sylvian. La voce di Garbo, sì, Flavio, cosa ne pensi? Beh, sì, assolutamente c'è un qualcosa di Garbo, però diciamo preso da un punto di vista meno pop elettronico. Sì, esattamente, ecco. più cadenzato, più lento. Sì. Difatti Enrico non conosceva Garbo, è andato a vedersi in Wikipedia chi era Garbo e a sentire qualcosa, e c'è qualcosa, sai, non è mica tanto distante. No, perché mi è piaciuto, l'ho ascoltato e cavolo, questo è bravo. anche perché il Garbo era quello che aveva portato un po' di aria boiuana, esatto, sì, ecco, la new wave italiana. New wave italiano. E abbiamo anche avuto la fortuna di intervistarlo perlomeno al telefono, sì, ecco, quindi sì, esattamente. Come si chiama? Roberto Abate, mi sembra, esatto, no? Sì, quindi sì, è proprio lui. Benissimo, allora lo salutiamo, se per caso è ancora all'ascolto, dopo quell'intervista magari uno diventa sempre più amico con la nostra radio. Allora, una domanda che noi facciamo spesso ai nostri artisti, che è sempre quella, però ci dà sempre spunto per prendere riferimenti di musica nuova, anche a noi sconosciuta. E quindi vi facciamo questa domanda: dovendo scegliere tre dischi, tre artisti abbinati a dei dischi, quelli che vi hanno un po' plasmato nella vostra identità musicale, quali potrebbero essere? Allora, vedo che vi guardate, facciamo botte, qua ci ammazziamo noi. Siamo venuti su in macchina e lui ci ha fatto ascoltare. Lui è riferito a Matteo. Io ascolto un po' di tutto, un po' di schifo. Lo schifo, però. Ma in realtà non è schifo, bisogna vedere il lato bello della musica. Allora cerchiamo, visto che abbiamo cominciato con Matteo, vediamo il lato bello della tua musica. Cosa che volevi propinare? No, io oggi c'era un oggi non ne parliamo. No, c'era un disco in macchina che loro non capiscono, sì, ma in realtà era musica molto bella, sì, a partire da scusa Matteo, era una compilation? Era un mix che aveva fatto un'amica di mia moglie da ascoltare, e c'erano gli Zero Assoluto, che secondo me non lo dire, come pop italiano è così schifoso come dicono loro. Interrompiamo la trasmissione. Vedi, non capiscono questi ragazzi qua. Nel senso, cosa ascoltavi di Zero Assoluto? No, niente, a parte gli scherzi, due canzoni non si passano, non è che che fanno schifo, ecco. Però veramente trovare tre dischi che ci mettono adesso parte gli scherzi, trovare tre dischi che ci mettano d'accordo è sempre stato complicato. È impossibile con noi, è impossibile. E poi non c'è Mancio. Ognuno di noi ha avuto ascolti differenti nel corso della crescita. C'è un gruppo invece che un gruppo sì. Sigur Rós, penso. E i Market. Nel piccolo, i Radiohead. Però si parla di grandi nomi. Poi adesso, sinceramente, almeno per quanto riguarda me, ultimamente mi sto concentrando un sacco sulla musica italiana e indipendente. Mm. E ci sono veramente tanti gruppi validi, e ritorno al discorso di prima che mi scoccia. Però ce ne sono veramente tanti. Che sì, la pecca potrebbe essere quella di avere meno originalità, ma se ne discuteva prima. Essere originali nel 2012, ripeto, noi è proprio quello a cui puntiamo, l'originalità, ma è molto molto difficile fare qualcosa di veramente nuovo. E il mio gruppo preferito sarà quello che appunto ascolterò e dirò: cavolo, questi non li avevo proprio mai sentiti. E quindi deve ancora nascere? Non lo so, perché purtroppo dischi vecchi dei mostri sacri non si possono toccare. Io voglio qualcosa di nuovo. Ma tira fuori un mostro sacro. Vabbè, per me un mostro sacro sono i Pink Floyd, però stiamo parlando veramente di mostri sacri. Poi dopo io sono un appassionato di musica d'autore o cantautoriale e anche di progressive italiano, però. E poi puoi citare un disco di progressive italiano? Ah, meglio, gli area, bene o male. Ma non trovo forse un disco che non mi piace. Forse piacere a Demetrio, che è al di sopra di tutti. Sì, senz'altro. Quindi poi mettiamo a reazione soprattutto. Allora. A reazione è sicuramente un bel disco, però ce ne sono veramente tanti. Quelli in cui c'è Demetrio, poi gli altri solo dopo, dai, solo musicali sono molto ostici. Poi c'è il Banco del Mutuo Soccorso, che è un altro gruppo totale, veramente. Requiescat in Pace è un pezzo, secondo me, da paura, perché riescono a mischiare tonalità di musica classica Beh, se i fratelli Innocenzi sapevano come suonare le cose. No, infatti, nel senso, questo è quello che ascolto. Poi noi facciamo tutt'altro. Tutt'altro, certo. No, certo, proprio non andiamo a fare paragoni che non esistono. Però io la mia l'ho detta. Beh, io come Leonardo, dai, dici qualcosa. Io sono cresciuto da giovane, allora purtroppo sono partito da... Sottolineiamo purtroppo. Perché purtroppo? No, a parte gli scherzi. No, alla fine ho imparato molto a suonare grazie al metal, almeno tecnicamente. Però poi sono passato al rock anni 70, 60, e poi negli ultimi anni, dai, sono arrivato ai nostri giorni, diciamo. Quantifichi. Quindi, qualche nome puoi farlo? Beh, anch'io vado matto per gli area, per esempio. Poi ascoltavo molto anche i King Crimson, io, parlando sempre di mostri sacri. Anche noi, anche noi, vero Flavio? Anche sì, noi. Sì, sì. King Crimson, sì, Pink Floyd, poi anche il Beat, insomma. Gli Who, molto, ho ascoltato molto gli Who. Beh, Keith Moon ti piaceva come batterista. Beh, certo. Mi sono scordato un passaggio importantissimo della nostra esistenza, soprattutto musicale, il passaggio grunge. Io sono noi tutti, credo, su quello l'ho saltato. Lui l'ha saltato, però noi, io, Matteo e Enrico, ci ritroviamo alla grande dalla metà degli anni 80 alla metà degli anni 90, dai Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam, Soundgarden, gli Sonic Youth, per quello io svisavo ai tempi. Poi chiaramente adesso cerco di ascoltare altro, perché insomma mi piace ascoltare cose nuove. A volte ascolto anche della roba che fa veramente schifo, me ne rendo conto poi dopo. Però si tratta sempre di valutare sempre nuove sonorità, e quindi tutti i dischi, tutta la musica va sempre la pena di ascoltarla almeno una volta. Avevamo fatto un pezzo che è nel disco vecchio, però, che si intitolava "Nella musica degli altri c'è sempre qualcosa di buono", e parlava di questo, ecco, del fatto di trovare, è impossibile non trovare almeno uno spunto creativo in una canzone altrui. Bene, allora abbiamo concluso questo excursus su quelli che sono i vostri gusti musicali. Abbiamo sentito parecchi di uguali, parecchi di contrastanti, abbiamo sentito anche il nome di Zero Assoluto, che per qualcuno no, cancelliamolo, per qualcuno è uno zero assoluto, per altri invece è di grande valore, e comunque sempre ottime canzoni. E allora abbiamo ancora fiato per un'altra canzone, dopo tutte queste chiacchierate. Allora, adesso tocca al "Il dolore che il cuore non sente", un titolo lunghissimo. Visioni di Codia, Blu Radio Veneto, con l'album Gritole. apri il sorriso con la mano, provi il gesto sincero d'uscire dallo specchio per confonderti davvero. Questo è il sogno del lago. Basterà una vita per potervi ben spiegare quanto c'è caro e prezioso questo cielo con solo bianche nuvole sopra. Vita dove oceano chiama cielo, saperti già lontana è un dolor che più non sente il cuor. Blu Radio Veneto. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Cominciamo ad avere le idee chiare su quella che è la musica di Visione di Cody. Sono qui insieme a noi a Blu Radio Veneto per proporci la loro musica sia in versione acustica sia nella loro versione da disco. Tra altre cose ricordiamo che nel brevissimo questa trasmissione sarà anche possibile riascoltarla entrando all'interno dei nostri archivi sonori tramite il sito internet bluradioveneto.it. Allora, Visione di Cody con questa canzone si intitola Il dolore che il cuore non sente. Allora, questa canzone, Visione di Cody, vogliamo dare una piccola, così, un piccolo cappello a quella che è la formazione del testo della canzone, che mi sembrava un testo davvero, come dire, sentito in questo caso. Il testo l'ha sempre fatto Enrico Mancini. Sì. E parla di un viaggio, di una persona che si allontana, una persona legata molto a lui, e se ne va. Mm. Se ne va dalla sua terra, dalla sua casa. Torna comunque, non è... non è raccontiamo sì, già sì. Il finale, no? Tanto per non rattristare troppo il momento. No, è una canzone sì. Secondo me molto bella, che è molto personale per lui. Sei un po' di parte, per dire che è molto bella. No, no, no. No, vabbè, è una canzone degli addii, diciamo. Sì. Dai. Sì, più che un addio, un ciao. Un arrivederci. Sì. Si lega sempre comunque al tema di Gritole, perché è una partenza da Gritole per andare molto lontano per molto tempo, quindi cambio di abitudini, stile di vita, e è comunque un ritorno. Però è un dolore che il cuore non sente, proprio perché questa persona va perché deve andare, perché si va a fare una nuova vita, in positivo chiaramente. Più che una lontananza nel senso chilometrica, è la lontananza che c'è tra quella che è la campagna e quella che è la città. Poi, perché diciamo, i ritmi cambiano, per cui sì, è lontana anche da un punto di vista psicologico. Però è più per forse più per scacciare via la malinconia, certo. E diciamo quella tristezza che c'è sempre, anche se è un arrivederci, almeno io la provo poi. Certo, certo, assolutamente. Come sarà triste poi salutarci, però certo, sappiamo che esatto. Verrete a trovarci quando volete ancora, certo. Allora, col prossimo disco, assieme al cane ce lo portiamo. Benissimo. Il cane ha lasciato in macchina il cane. E anche Enrico Mancini, queste cose non si dicono per radio, perché vengono subito i signori della LAV. No, non è vero. Ecco, no, no. Bene, musicalmente stiamo scherzando. È un pezzo, secondo me, abbastanza oscuro. Non so, Flavio, se sei d'accordo, però somiglia sempre a grande distanza a certe cose che faceva Nick Cave con il Murder Ballad, cioè quelle ballate abbastanza oscure. E questo è oscura musicalmente, secondo me, la vedo un po' dark, non so se siete d'accordo. Sì, quando è nata questa canzone le prime volte, una nostra cara amica che ci segue spesso, ci dà molti consigli, anzi ha suonato anche con noi, la Milena Cruciani, disse proprio, il primo commento fu che la sua voce, che è abbastanza bassa, sì, diciamo, certamente molto bassa, sì, forse calzava anche, cioè veniva fuori veramente cupa nell'insieme a questa canzone. Quindi... sì, io l'ho sentita così, a me in questo momento qua, ho avuto questa sensazione di oscuro, di dark, ma nel senso positivo chiaramente. La tua voce, giustamente come diceva Leonardo, si accompagna bene a questo ritmo, a questo lento cadenzato ritmo. Un critico ha scritto un cadenzato ritmo lento, qualcosa di questo genere, parlando di questo pezzo. Sì, no, sono pienamente d'accordo con voi, a parte le critiche alla mia voce, che mi astengo perché... Non mica criticato Leonardo, ti ha detto una no, cosa... No, no, no, le critiche che ah, sì, ho capito. Sia positive che... Sempre positive, perché negative non le accetto. E quindi sì, no, ripeto, spesso e volentieri, almeno adesso se parliamo di melodie vocali, non penso a quello che verrà fuori, canto quello che mi viene. E spesso e volentieri me le penso la notte prima di andare a letto, mi viene il motivo quando meno te l'aspetti, e poi dopo magari lo si sviluppa anche insieme. Anche Leonardo fa i cori, e quindi ti dà una mano, chiaramente, senz'altro. Secondo me, lasciare, adesso facciamo riferimento a questa canzone, ma ce ne sono altre in cui diciamo che io faccio la parte bassa e lui fa la terza o la quinta o l'ottava sopra, che è necessaria. Sì, è proprio voluto, ecco, proprio per alzare un attimo il livello. Insomma. Certo. E altra cosa, non abbiamo neanche presentato gli strumenti musicali di cui vi avvalete questa sera. Ci siamo dimenticati di presentarvi, oltre alla batteria del Leonardo, che è una batteria tradizionale in versione minimalista, visto la posizione e la serata, immagino che ci sarà qualche muto in più nella versione. Non troppo. Quindi sempre una batteria fermata, diciamo, all'origine, in questo caso. E invece Matteo ed Enrico hanno portato, oltre che a un basso davvero particolare che non avevo mai notato prima, possiamo dire modello? Ah, Rickenbacker. Ecco qua, bene. E modello più classico. Poi abbiamo una Fender dall'altra parte. Sì, una Telecaster. Una Telecaster. E poi abbiamo anche due tastiere. Una sembra arrivare direttamente dalla preistoria, no? Sì. Visto direttamente garage del mio testimone di nozze, tra l'altro. Quindi che gliel'ho rubata proprio in una maniera. Puzzava di piscio di gatto. Puzzava da fa schifo proprio. Era una roba pazzesca e pure andava. Loro all'inizio non erano molto d'accordo a usare questa tastiera. Puzzava. Avevamo una Bontempi all'epoca. Sì, ero scena anche qui. Aveva il suo fascio. Di quelli con i tasti colorati, con Winnie the Pooh? No. però tipo quella, certo. No, era più vecchia forse. Invece adesso vogliamo anche descrivere questo è un micro Korg. Diciamo che è una specie di sintetizzatore molto molto analogico, diciamo, e molto in realtà in passato erano molto più analogici. Noi probabilmente inizialmente eravamo più affezionati a quel tipo di registro lì, e infatti in sessione di registrazione Z. Poi per l'Emiliano, romagnolo, S la Z. abbiamo usato un Korg totalmente analogico. Questo qua è un ottimo compromesso. Diciamo che non navighiamo nell'oro, non costa tanto. Ha degli ottimi registri, ha dei bei suoni. È comodo da portare. Se lo impari a usare l'editor, ti diverti la faccia. Il problema è usare l'editor. Sentiamo un attimino da solo che rumore fa. Ho veramente un sacco di suoni, a partire da questo suono qua, che sono una specie di violino, dovrebbero essere. No, non è vero. È questo. O se no c'è. Ma ne ha veramente tanti. E poi c'è anche la parte truzza, come diciamo noi. Sì. Cioè tipo questa. Ah, proprio alla Kraftwerk in questo caso. Esatto. E in questo caso diciamo che Enrico assomiglia più a un DJ che non stava cercando di mixare, esatto, le varie cose. Poi sì. In realtà, ripeto, noi selezioniamo i suoni che ci piacciono cercando di modificarli, quindi quelli che sono sul banco li usiamo poco spesso, più che altro li cambiamo, e quindi dovrebbero teoricamente essere originali. Poi ce ne sono alcuni invece, tipo quello che abbiamo usato prima, che però non abbiamo utilizzato in fase di registrazione. Questa specie di organo, cosa può essere? Un cello forse, che ha un attacco un po' ritardato e un rilascio invece molto allungato. Più che altro lo usiamo per fare dei tappeti musicali, visto che ci manca una sezione fiati e quant'altro. Insomma. Bene, quindi evviva il Korg. Alla grande. Un bel da fare, insomma, si può dire in questo caso. Esatto, cogli la palla al balzo. Sì, cogliamo la palla al balzo. Allora ci ascoltiamo un altro pezzo da disco con Visione di Cody, appunto c'è un bel da fare, ed è la traccia numero 10, ovvero quella che chiude il disco, però noi stiamo ancora qua, non andate via, mi raccomando. Rock Wave, l'onda del rock. Non importa quel che devo fare. Se lo faccio bene, no, no, no, no, no. E per me tutto questo non verrà capito. Ma sulle labbra brucia come il sale, no, proprio che l'amore. No, no, no, no, no. Tra le montagne debba rimanere. No, no, no, no, no. Si è messo qua per rimanere, non andare. E i nostri corpi semi da piantare. No, no, no, no, no. Bravo a lanciare i sassi, è sempre il primo a farsi avanti. Blu Radio Veneto. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Insomma, un bel da fare questo, la traccia numero 10 di Gritole, Visione di Cody. Ancora un racconto dal vostro paese preso di mira in questo disco, Visione di Cody. Ah sì, senz'altro. Diciamo che anche quando no, anche questo pezzo qua lo canta Greggi. Il secondo pezzo. Esatto. Poi ci siamo dimenticati un'altra collaborazione, che è quella di Marcello Detti, che suona il trombone nel Il dolore che il cuore non sente, il pezzo che abbiamo fatto prima. E in questa traccia qui invece suona sia il trombone che delle conchiglie. Che cosa sono come strumento le conchiglie? Sono proprio conchiglie vere e proprie. Una conchiglia enorme. Lui suona tutto, suona le conchiglie, suona gli imbuti, suona un ragazzo anche lui del nostro paese, che ha veramente un sacco di progetti e ha suonato anche con Ino Braino per un periodo. Ah, con Ino Braino, sì, sì. Esatto. E adesso c'ha veramente la Black Family, Supermarket, suona tantissimo, anche perché non penso che di trombonisti, insomma, del suo livello poi ce ne siano, no. Anche così adattabili a qualsiasi genere, non ce ne sono tanti, lui è veramente bravo. Una cosa dovrei sottolineare, il discorso della Taffazzi, non è la vostra etichetta, però la Taffazzi Records è stata l'etichetta che ha portato avanti un discorso di indie, che non è un discorso di indie molto interessante, è stato proprio la prima in assoluto, non è così? No, è verissimo. Noi adesso avete un'altra etichetta, voi avete la Bruttore Moderno. Esattamente, però l'input, la via l'ha data questa etichetta. Sì, noi in passato ascoltavamo, anzi in realtà ancora, dei dischi di Mr. Brace, mi ricordo. Si dice Taffazzi. Io in realtà non lo so neanche io, penso Taffuzzi comunque. O se no anche i Cosmetica erano sotto Taffazzi un tempo, loro ci piacevano, ci piacciono ancora tanto. Adesso loro fanno i dischi per La Tempesta e tra l'altro da pochissimo è uscito loro ultimo disco, che è come mai questo, secondo voi, queste numerose etichette così indipendenti, così attive, che nascono su quel punto là preciso d'Italia? C'è un motivo, al di là dell'università, al di là fermento c'è, nel senso che se ci sono tanti gruppi, di conseguenza ci deve essere anche qualcuno che cerca di promuoverli, perché purtroppo entrare nel mondo del concerto, del live, in questo periodo nel senso preciso di adesso, è veramente complicato. Noi ci proviamo in tutti i modi, ma se non hai un grosso seguito, se non hai un grosso booking, non è così semplice come può sembrare, perché spesso e volentieri il locale si affida al booking più che all'ascolto vero e puro del disco, nel senso di io ho un locale, chiamo questo gruppo perché mi piace. Magari è semplicemente che si conosce il booking, ci si appoggia al booking e si prende quello che viene. Di solito poi vengono sempre scelte le cover band, no? Che sono amate e odiate un po' da tutti. Sì, no, se me lo chiedi a me io le odio, però spesso si succede. No, ma sì. anche tra gruppi. dal mio punto di vista potrebbe non essere solo un bene, nel senso che con il booking diventa tutto un po' più serio, complicato e burocratico dal mio punto di vista. Però se è necessario, no, anche perché certi locali, c'è il brutto vizio, diciamo, che se ti presenti tu come membro del gruppo e chiedi possiamo suonare, fare una serata, ti snobbano un po'. Se già dici o mandi qualcuno per te che dice l'etichetta, ti porto tot, è già un'altra cosa. La serie, il re non si può presentare di persona, ma deve mandare proprio messo in questo caso. Giusto. Benissimo. Allora, mancano ancora 26 minuti per la nostra trasmissione. Abbiamo ancora molte cose da sentire di visione di Cody. E allora, abbiamo spazio ancora per 3 brani live. E se non sbaglio, ci volete anche deliziare con un altro inedito. Adesso vediamo. Allora, prima dell'inedito, se poi ce li giochiamo tutti, non va bene. Sì, assolutamente no. Sarebbe come presentare il nuovo disco. Esatto. Subito così. Vabbè, allora cominciamo con Colpi Secchi. Prego. Dimmi se solo avessi tempo, faresti questo letto con me? Era preziosa come il cielo, era suadente e riverente, non l'ho stata mai. Radio Rock Wave, l'onda del rock. E quando si dice colpi secchi, sono veramente colpi secchi questi che abbiamo sentito anche dalla batteria di Leonardo. Allora, visione di Cody, mi raccomando, solo visione di Cody, senza le visioni di Cody o i visioni di Cody, altrimenti non si riesce a trovarli correttamente su internet, perché naturalmente quando uno deve documentarsi su un gruppo va a vedere direttamente anche su YouTube cosa viene proposto, e in questo caso le visioni di Cody vengono fuori anche alcune tracce di film, però Scary Movie, se non sbaglio, ecco qua, sì. Scary Movie, sì, assolutamente sì, è il mio film preferito. Ecco, bene, anche questo. Però scrivendo solo visioni di Cody arrivano alcune identificazioni che vi riguardano, e allora mi dovete spiegare perché visioni di Cody, avete voluto pubblicizzare Gritole con tre clip del tutto particolari, perché c'è una clip che vi ritrae forse in soffitta o da qualche parte, sì, mentre suonate a turno un tamburo. Senza senso, solo, no? Solo qualcosa, eh. E poi altre tre tracce che vi ritraggono in video mentre siete su un pagliaio, si può dire così, no? Quella lì è proprio allora, la prima parte era semplicemente per presentarci e per fare vedere chi eravamo, e quindi sì, ci hai preso, è una soffitta, sì. E invece la seconda parte è per presentare le Gritole, quella è proprio la stalla e quelle sono le mucche, quando le fanno mucche. Sono le mucche delle Gritole, le vostre fans, le nostre migliori fans, puzzano anche loro come la tastiera, come però. La tastiera, no, perché è fantastico. Invito anche gli ascoltatori ad andare a vedere appunto all'interno di YouTube, cliccando Visioni di Cody, mi sembra, non so se sia la clip 1 o la clip 2, dopo una lunga ricerca al buio entrando in una stalla, a un certo punto venite fuori voi quattro con un bel quindi, che naturalmente fate compagnia, anzi cantate o raccontate qualche barzelletta. In realtà le abbiamo svegliate, se ecco. Erano ben incacchiate. Bene, curiosità, che ora l'avete registrato? Non mi ricordo. Era inverno, era freddo. Ed era notte, sì. Ma da noi fa buio alle 5. Potevano essere le 6, no, però era dopo cena, quindi eravamo proprio belli carichi. Belli carichi, quindi un bicchiere di vino in più e vi siete. Sì, tra l'altro c'è un nostro, nostro amico che ci cura i video, sarà felicissimo se parlo di lui, si chiama Mont. E prossimamente uscirà il video di Claudio e lui ci ha dato una mano a farlo. E penso che rimarrà sulla falsa riga di queste clip qua. Musicalmente questo pezzo, soprattutto nella performance, posso dire così, Leonardo, è molto circense come pezzo, sì, quasi cabarettistico, sì, in alcuni, sì, momenti. Molto. È così? Sì, sì. L'idea è partita da questo motivo, o no? Non so se è partita da questo l'idea, però... Qui in questo momento l'avete fatta in questa maniera. Hai trovato te il termine giusto, non avevo mai pensato in questo modo, ma effettivamente... Sì, sì, alla grande. Sì, sì. Anche la tastiera molto giostrina. È un gioco. È un gioco, sì. Ma sì, sì. Anche il testo è molto scanzonato e ciamblone, come si dice dalle nostre parti, quindi, e quindi divertente, possiamo dire. Sì, esatto, non vuole essere volgare, anche se diciamo delle volgarità, però tutti nella nostra esistenza abbiamo pensato o provato a fare o fatto certe determinate cose, quindi è inutile nascondersi dietro un dito e una canzone ci sta. Certo, ricordiamo ancora una volta ai nostri ascoltatori che Visioni di Cody regalano anche la loro musica, ovvero i loro precedenti lavori sono disponibili per lo scarico gratuito su internet, però c'è anche la maniera per entrare in possesso, in questo caso pagando, perché la musica ha bisogno di soldi per continuare ad esistere. Ricordiamo anche le due formule, quindi la formula MP3, quindi scaricando online al costo di 1 euro, mi sembra, a canzone, certo, scaricando quindi da Bandcamp, e appunto cliccando su Visioni di Cody, insomma poi diciamo... Poi c'è Facebook, insomma ci sono tutti i contatti del caso, e fra poco sarà online anche www.visionidicody.it, che stiamo sistemando in questo periodo, quindi poi lì troverete tutti i collegamenti del caso. Benissimo, e poi c'è anche la possibilità di avere le spedizioni, in questo caso voi proponevate la spedizione gratuita addirittura. Ah sì, cioè andiamo alle poste la mattina dalla Franca, che è la mamma di Andrea, e gli diamo i dischi. O dalla Paola. Paola che vai, prego. No, vabbè. La Paola è la mamma della sua amorosa. Sì. E quindi tutta famiglia, no, e quindi no, no, specifichiamo una cosa, non è che non ci fanno pagare, paghiamo noi, perché insomma il disco costa 10 euro, se nei negozi in cui è lo paghi 10 euro, giusto che se te lo spedisco. Ne abbiamo spedito uno anche in Lussemburgo. Addirittura. Ah, sì, assolutamente, sì. Quindi diventa musica internazionale anche quella di Vittorio Ricordi. In questo caso basta solo un disco che esca dalla frontiera per renderlo internazionale. Allora, Gritole, sempre più curiosità attorno a questo disco. E sempre meno tempo però da dedicare alle vostre canzoni. Allora, ci siamo decisi, abbiamo capito qual è il pezzo da fare inedito. No, allora il prossimo pezzo penso che sarà Ubalena, sì, che è in Gritole, e diciamo che iniziamo con quello, intanto ci pensiamo. Intanto, vabbè, allora ancora Ubalena, poi da Gritole appunto con Visioni di Cody, poi cercheremo di capire anche il perché questo Ubalena è scritto con una sigla puntata. Eccoli qua, Blu Radio Veneto. Scusami se ho sbagliato, anche quando annegavo, disse il giaro alla balena, disse il giaro alla balena, supponendo mare calmo e luna piena. Ho perso d'occhio l'Adriatico, proprio mentre decollavo, disse il porco alla balena, disse il porco alla balena, ho sbagliato, canto di sirena. Sotto grandi navi ho filtrato tra i miei denti tutti quei silenzi in quegli oceani fermi. Ora dorme la balena, ora dorme la balena, sta sognando una cosa vera. La musica vista dai Visioni di Cody. Gritole si intitola il loro nuovo disco, Ubalena, il pezzo che ci siamo sentiti nella versione in acustico. Allora, Ubalena scritto con una serie di puntini tra le varie lettere. Allora, sicuramente non è una balena chiamata U, ma c'è un qualcosa di più. Sì. E noi vorremmo scoprirlo stasera, come diceva un noto cantante. Ecco, in dialetto sampierano, Ubalena significa letteralmente tuona, anzi, sono i lampi in realtà. E niente, tutto qua. Ubalena è un gioco di parole E in realtà ci sono i puntini, penso. No, no, sì. È proprio per questo motivo qua, per cercare di scandire meglio il gioco di parole. Poi siamo un po' affascinati dal mare in questo disco, nel senso che sì, citate l'Adriatico, esatto, sì, ma sì, volontariamente anche il mare che spacca la terra. Forse c'è un po' di, visto che stiamo in montagna, un po' di mancanza, no? Ci manca qualcosa, allora lo ricerchiamo. Voi da lì comunque lo vedete il mare, no? Dalla vostra collina? No, da San Piero Bagno è impossibile. Quando però no, nel sì. senso che perché è diciamo in una valle, sì. Cioè, però vai in cima ai monti e il cielo è terzo, sì, si vede. Al Monte Fumaiolo, in cima al Monte Fumaiolo. Quindi. Una cosa volevo sottolineare, il bel giro che ha fatto Matteo, questo arpeggio continuo. Beh, sì, ha fatto bene, dai. Questo arpeggio era significativo, cioè proprio, poi voi l'avete lasciato andare, verso la fine è stato lui il protagonista del pezzo. È molto minimale su questo pezzo, decisamente quasi soffuso, appena accennato. E un po', forse anche, tra virgolette, un po' ecologico, posso dire questo? C'è un po' di ecologia che gira e rigira. Sì, sì, ripeto. Oh, perdono. La natura, diciamo, l'ecologia che ci può essere in questo pezzo è solo una facciata, se sì, ti devo d'accordo. Dire la verità. No, però... involontariamente, nel senso che il testo è nato perché ascoltando una canzone di un gruppo che tra l'altro è di Forlì, quindi delle nostre parti, ci ha ispirato, e loro parlavano appunto di un faro e di una balena, e noi abbiamo preso la palla al balzo, abbiamo creato il giaro semplicemente perché avevamo salvato il file male nel computer, invece che il faro avevamo scritto il giaro, e quindi è diventato il giaro, e noi ce lo immaginiamo come un personaggio realmente esistente. E niente, sì, è un pezzo un po' sognante. Sì, soffuso, il critico ha scritto soffuso, possiamo essere d'accordo che noi sì, non sì. siamo critici, però soffuso è un termine giusto, mi pare. Sì, sì, sì. Sì, sì, io sono d'accordo con il critico. No, beh, assolutamente, anche perché vedendo così informazioni che vi riguardano all'interno di vari siti internet che propongono appunto recensioni, c'erano solamente parole positive, quelle che accettate naturalmente di buon grado per quanto riguarda il vostro disco, e anche la curiosità di più di qualcuno di ascoltare anche i vostri precedenti brani, che quindi ricordiamo anche essere a disposizione degli ascoltatori gratis, per lo scarico gratis in MP3 all'interno del sito bandcamp.com/ Visione di Cody. E quindi l'abbiamo detta completa, però ci sono miriadi di indirizzi, basta anche cliccare all'interno di Google, vedrete che sicuramente entrerete in contatto con la dimensione musicale di Visioni di Cody. Allora, nel frattempo siamo riusciti a concentrarci con un ultimo pezzo per finire adeguatamente la trasmissione, ragazzi? Sì, sì. Ah. Diciamo che chiudiamo un po' il cerchio, anche se ripetiamo una cosa. E a Maurizio è piaciuta Puttana Miseria. Noi bellissima. siamo contenti. Noi ce l'eravamo preparata per farla. Sì. Poi abbiamo pensato, sì, però la canta Charlie, facciamola sentire che la canta lui, che è molto più bella. E c'è da dire che però ci piace anche la versione che facciamo noi, che è molto minimal, perché è solo per acustici o appunto radiofonica. È nata proprio per queste occasioni. Esatto. E allora che dire, noi la canta il lead no, vocal, no, bisogna no. dire sì, Leonardo in questo caso, Leonardo, quindi diciamo, scarica la responsabilità, quindi diciamo che la canta allora Leonardo. Allora che dire, prima di ascoltare questa canzone, allora, visto che abbiamo scelto come terminare, direi di passare a quelli che sono i saluti ai nostri ascoltatori che sono stati così amabilmente all'ascolto di questa serata in compagnia della musica di Visioni di Cody, e quindi lasciamo i microfoni aperti solo per voi. Allora grazie ancora a Visioni di Cody per essere stati con noi in questa serata, quindi ringraziamo Enrico, Leonardo, Matteo e poi mandiamo i saluti anche a quel Enrico che è stato è stato più volte nominato all'interno della trasmissione perché è anche lui un protagonista di questo disco, anzi si tornava a ripetere sempre che i testi li ha scritti tutti lui, quindi lo salutiamo, speriamo che la prossima volta con il nuovo disco Visione di Cody si presenti anche Enrico Mancini, quindi troveremo anche una di quelle serate dove non è a fare qualcos'altro in questo caso qua. Vabbè, allora niente, Maurizio, noi salutiamo i nostri ascoltatori e lasciamo i microfoni aperti a Visione di Cody. Ricordiamo ancora una volta l'album che abbiamo ascoltato e ci siamo veramente sbizzarriti nel commentare, e si intitola Gritole. Allora, da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara è veramente tutto, buona serata, buonanotte a tutti, vi lasciamo ancora con Visioni di Cody, grazie ancora ragazzi e buon rientro nella vostra amatissima terra, Bagno di Romagna. Ciao! Che parla d'amore, ma non ha niente fra i denti, marmellata di more, burro, pane che mangi, canta per chi se ne va, canta per chi se ne va, canta per chi se ne va, canta. Fine si alzi, chi la terra ha amato, di chi muore di stenti e non si conosce il peccato, canta per chi se ne va, canta per chi se ne va, canta per chi se ne va, canta. Giorno dei morti, la fame ti svelerà, chi ha alzato gli sguardi e chi di sangue macchia i panni, canta per chi se ne va, canta per chi se ne va, canta per chi se ne va, canta. Blu Radio Veneto Rock.